Siamo in missione per conto di Dio. Quattro mattino di Luca Telese. Bene, questo per farti cominciare la giornata. Allora, fermatevi nelle macchine, fermatevi nel traffico, fermatevi a casa vostra, tenete lo spazzolino sospeso a mezz'aria. Signori, arriva un messaggio e dice: dopo Lou Reed, se mettete i Velvet Underground, secondo me Minzolini si esalta. Ma qual è la tua musica? Normalmente il tuo disco feticcio. Adesso non dovrei dirlo, visto che a Panama esce quello che è, ma ci piacevano molto gli U2. Ma è vero che sei Yoda, la firma occulta del giornale? È mio cugino. Abbiamo fatto spoiler. Continuiamo a dare soldi per i ponti e continuano a rapinarci i soldi, capisci Luca? Capisci? Chi è più cattivo con Renzi? Io o Oscar? Dillo. Sì, per cortesia, se mi fate parlare. Lei non è altro che una cocotta, altro che una signora. Naldi è liberissimo di interrompermi, di tacitarmi, darmi del coglione. Oh, e qua ti voglio. Abbiamo... Vedi, per esempio, io non mi sento aggredito dal fatto che tu mi abbia dato. Ma stiamo scherzando. Io non te l'ho mai dato. Con giocare. Il messaggero, ho tagliato la prima pagina, quindi non la trovo più, non sto scherzando, eccolo qua. Feltri, l'arrivo di Feltri al Libro, l'arrivo, l'ennesimo ritorno insomma di questo pendolo meraviglioso, riuscire a scroccare tanti denari dagli stessi due editori in pendolo nella vita per 20 anni. Luca è un modello di come si fa. La rifarebbe domani un'iniziativa con la palestra di Spada? No, oggi alla luce di quanto è successo e alla luce anche poi degli inchieste non è il caso. Non crediate a quello che dice lo Stato. Siamo democratici. E allora questa non è una radio per tifosi. Sono da tanti anni qui, è bontà loro che mi tengono, grazie, speriamo. Non ho detto bisogna sparare. Tu gli spari e però non cadono mai. Possiamo evitare di dire sparare? Il paradosso continuo è lo strumento di chi non ragiona bene. Reach out and touch me. Popolo dei già svegli, buongiorno. Ieri aveva iniziato qui la giornata De Stefano, il vicepresidente di Casa Pound. L'ha finita ieri notte a Piazza Pulita. Vi daremo i lampi per chi l'ha visto e anche per chi non l'ha visto, di questo dibattito e di un'inchiesta incredibile con i ragazzi di 14 anni realizzata dalla redazione Formigli, che dicono: io picchierei i neri, io li prenderei ammazzate, io mi diverto ad insultarli. La domanda è perché. E allora oggi il tormentone è l'esercito, Seven Nation Army, come un coro a stadio, come una battaglia, come una guerra, perché fra gli Spada, le elezioni e tutto quello che sta accadendo è un paese un po' in battaglia. Ecco con noi il grande maestro Alberto Castelvecchi, editore, professore. Buongiorno tutto. Luca, buongiorno a tutti. Ieri hai visto questa incredibile vicenda di Ostia, è deflagrata ovunque, ormai si parla solo di Ostia, però Ostia è un simbolo, no? Ma io sono di Ostia, sono cresciuto a Ostia, no. Abbiamo uno scoop, non solo, ma ero compagno di banco di Giuliana Di Pillo, nel senso che l'attuale candidata al ballottaggio del centro. Conosco bene Giuliana, conosco bene. Beh, la situazione di Ostia è una situazione che è stata lasciata galoppare e camminare per diversi decenni. Fortunatamente c'è stato messo un commissario prefettizio bravissimo, e però è un tessuto sociale completamente degradato. Ma è diventato il Far West, come dicono? Guarda, quando ero ragazzino io, già la zona di Piazza Gasparri, cioè quella famosa degli abusi edilizi eccetera eccetera, era terra nullio, terra di nessuno. Io non ci potevo mettere piede, nel senso che Ostia era divisa in distretti, c'era il distretto dei fasci, via delle baleniere eccetera eccetera, il bar Faiella, che era il bar dei nazisti, che poi è diventato un'altra nazisti cosa. O fasci? No, nazisti, nazisti proprio. Ecco. Beh, a Ostia c'erano fior di amici sia della banda della Magliana che dei NAR, insomma. Ostia ha un blasone criminale molto antico, solo che è adesso il tessuto sociale che è complessivamente degradato, perché quelli che allora erano chiazze di illegalità adesso si sono completamente estese. Questo è il tema. Ed è molto difficile, io faccio i migliori auguri a chiunque vincerà comunque questa contesa, perché è molto difficile pensare di riuscire a battere, che so io, nel insieme, 'Ndrangheta, Camorra, Clan Spada, Clan Fasciani, eccetera, eccetera. Sembra che Ostia a un certo punto, che è molto vicina, diciamo, all'estuario del Tevere, cioè alla, allo sfintere di Roma, si sia concentrato veramente tutta la, la fogna possibile delle criminalità romane. Immagine straordinaria, poetica, pasoliniana, e noi iniziamo con il fritto misto. Pier Vincenzi ringrazia l'operatore, il giornalista picchiato da Spada ringrazia l'uomo che ha girato, il suo operatore, per aver girato quella immagine. Mario Orfeo lo ha convocato a Viale Mazzini per sincerarsi delle sue condizioni. Non è un vaso rotto che ci può fermare, certo, però insomma siamo ancora un po' scossi, io e sotto Edoardo Azzelli, che coraggiosamente ha difeso il girato, la telecamera che gli aveva alberato, insomma bisognerebbe anche riconoscere a Edoardo la sua caparbietà, la sua, il suo coraggio. La solidarietà istituzionale, l'abbiamo vista, della RAI a Pier Vincenzi, il reporter della testata in faccia, ma anche la solidarietà a Spada, dalla Ostia profonda che stiamo raccontando. State tutto il giorno qua, tutto il giorno qua, ma che cazzo voli? Vabbè, se svegliavi a me. Se c'ero io le faccio un bucio da culo così proprio. Ma scusa un attimo. Pure dopo che abbiamo andato per terra, abbiamo pure a calcio. Però scusa un attimo, è normale che uno tira un altro fatto. No, è normale che in Italia fa, è normale che voi state sempre a rompere il cazzo. Il bar music di Ostia, qui c'era il calore, la passione, ha ragione, uno dei nostri, ha fatto bene. Ma tu te lo vedi se tutte le volte che ne so che le Iene che strisciano la notizia vanno sotto la porta di qualcuno a dire, hai visto, partissero le capocciate. Io conosco un po' Ostia. Sarebbe un cimitero. Assistiamo praticamente al contrasto tra il codice normale delle persone che fanno interviste e il codice coatto. Il codice coatto è che te lo dico una volta, te lo dico una volta, a terza te parto di capoccia. Questo è esattamente il... È quello che è accaduto. Quindi il signor con Spada... quella premeditazione, i due secondi, oh! Ma infatti la cosa incredibile che nel girato che è seguito dice ma hai rotto il naso, e lui risponde tu mi hai rotto il cazzo, praticamente dice in termini di codice di strada io ho agito secondo il codice della strada quadra. Quindi assistiamo proprio a due ordini lingue, di valori, due lingue che sono inconciliabili. E allora sentite i ragazzi 14-20 anni trovati dalla troupe e dalla cronista di Piazza Pulita, parlano apertamente del razzismo. Gli italiani secondo me devono avere delle priorità su persone che vengono dall'estero. Ormai gli immigrati siamo noi, non sono più loro. Dai, li prendevamo in giro, che ne so, li sfruttavamo un po'. Un po' da razzisti, negro di merda. Sono sincero, troviamo anche una cosa divertente sotto un punto di vista. A me diverte offenderli. Non lo so, è un qualcosa che, con cui sono nato, non lo so. Era molto interessante l'intervista integrale. E diceva questo ragazzo: penso che ormai si stia affermando questa moda fra i giovani, è qualcosa con cui sono nato. Ma la realtà è proprio questa. Questi ragazzi non fanno altro che ripetere in maniera, come senti, anche loro coatta, quello che sentiamo dire ogni giorno anche da esponenti politici autorevoli della Lega, talvolta di altri movimenti, cioè che sti negri ormai governano l'Italia. Aiutiamoli a casa loro. Che in certe zone di periferia è vero come un senso di accerchiamento, però questi ragazzi non sono altro che l'anello debole di una catena che ormai sono nel paese abbastanza diffusa. Non è che è la prima volta che sento queste cose, basta sentire la zanzara di Cruciani, ci sono fior di adulti che dicono di peggio. Un grande termometro del paese. Bebevio ha vinto l'oro ai mondiali di fretto individuale battendo la russa Bojokova. La felicità è tanta, ma anche la voglia di fare l'ennesimo appello pro vaccino. I miei genitori mi hanno fatto subito conoscere Pistorius e Zanardi, quindi vedere queste due persone che mi hanno detto guarda, poi sì, sei amputato, fregatene, adesso vai a fare tutto quello che vuoi fare, però adesso facciamo tutto il possibile per riuscire a dire a tutti cavoli fatevi il vaccino, perché se è una cosa così semplice per riuscire poi a evitarsi una gran, non so se si può dire, rottura di palle, perché alla fine è una rottura di palle, è una cosa insomma facile, veloce da fare. Ti piace Bebevio come personaggio? Mi piace il fatto che sia stata accanto a Mattarella la sfilata del 2 giugno, la festa della Repubblica, e mi piace anche la freschezza e il coraggio che dimostra come personaggio pubblico. Ora, l'appello no, diciamo, contro i Novax è una sua iniziativa, penso, spontanea, politica. Certo, Pistorius non lo chiamerei a testimonial, perché Pistorius come atleta, però sì, diciamo, ha avuto qualche piccolo guaio giudiziario, a quanto pare, per aver fatto fuori la moglie. Per il momento la cosa è ancora, diciamo, sotto. Comunque sì, a me Beppe Pio piace moltissimo, mi sembra la testimonial di quella accettazione sempre più importante del fatto che le forme di disabilità non sono altro che forme diverse di abilità che fino a poco tempo fa consideravamo degli handicap. Bersani, Renzi non porta bene al centro-sinistra, il paradosso del gufo, vedi? Cosa rimprovero io a Renzi? L'idea di assorbire l'elettorato di destra, scimmiottando le parole d'ordine un po' di Berlusconi, e di azzerare i 5 Stelle facendo un po' di populismo a bassa intensità. Il risultato è i 5 Stelle in spolvero, la destra in spolvero. Se Renzi portasse bene al centro-sinistra, io lo abbraccerei. Ma non è così, così chiudeva Bersani. E Bersani c'ha sempre questo linguaggio, lo spolvero. Lo spolvero in termini della musica lirica. Il tuo. Si diceva la musica lirica, sì, il mio telefono, scusate, la musica lirica, si dice, quando entrava Pavarotti in scena aveva più spolvero degli altri. Uno immagina questa destra in spolvero, questi personaggi. La destra in spolvero. Berlusconi D'Alema su Renzi. Vengo al 40 da Tel Aviv, posso parlarvi della situazione israelo-palestinese, se siete interessati. Noi non abbiamo cambiato opinione. Giuliano Pisapia ha detto, due punti, aperte virgolette, la ricostruzione del centro-sinistra richiede una discontinuità di contenuti e di leadership. Chiuse virgolette, punto. Sono d'accordo con Pisapia. Allora, ieri abbiamo mandato ampiamente Renzi e ora il terzo strale che gli arriva da Grasso. Voglio esprimere me stesso. Io non so se sono uscito dal PD oppure se non c'è più il PD. E adesso vediamo se finalmente, alla bellissima età che ho raggiunto, se posso finalmente riuscire a esprimere me stesso. L'intervista a Luca Sofri al Festival della letteratura di Pescara ci consegna questa frase che è un po' un punto di svolta. È il PD che non c'è più, dice Grasso. Eh sì, ma diciamo utilizza una tecnica renziana, no? Di fatto di dire non sono io che sei tu, cioè, sì, è il Cerino, e se lo rimpallano, ma tanto cambia niente. Però insomma Grasso è stato candidato da più di un esponente della sinistra a essere possibile leader di un fronte di centrosinistra che però più che adesso mi sembra più che altro discute con se stesso. Grasso sarebbe una figura rappresentativa, bisogna vedere chi lo vuole, bisogna vedere soprattutto il terzo incomodo, cioè Renzi, si è disposto a fare un passo indietro, chi lo sa. Un altro figlio di Ostia, mio caro, in nazionale, cioè mi hai palleggiato, chi Daniele è? De Rossi. No, Daniele De Rossi, so che il coatto numero uno della Roma dopo il capitano Ma Totti. Ma permetti di dire coatto De Coatto io lo dico in senso, come lo diceva il mio amico Piotta, cioè qua sì. Ammazza che coatto, sta cosa è figo, cioè Daniele De Rossi. Beh, è un altro ostiense di eccezione, sì. Ed eccolo cosa dice, stasera c'è Svezia-Italia e lui chiede di più, se bastasse fare lotta in campo giocherebbero tutti in nazionale, in Serie A. Sangue e sudore, va bene il concetto di dare tutto fino allo sfinimento, però poi se bastasse fare la lotta o la guerra in campo giocherebbero un po' tutti quanti in nazionale, in Serie A, eccetera, eccetera. Ho visto un documentario pazzesco su De Rossi, molto bello, in macchina su Sky. Paul McCartney a favore dei vegetariani, farà arrabbiare Cruciani. We are on this incredible planet and there doesn't appear to be another one. Abbiamo solo questo pianeta, ma dire smetti di mangiare carne tutti i giorni la gente è troppo. Cominciamo proponendoli di non mangiarla un giorno a settimana. Lo faranno, poi passeranno a due, poi magari smetteranno. Questo almeno è il mantra di McCartney, che lancia questo messaggio per presentare un documentario prodotto insieme alle figlie, One Day a Week, appunto. Però Paul McCartney è indietro. Le persone che oggi sono avanti dicono che il fabbisogno proteico ormai sarà possibile soddisfare con gli insetti, con i grilli, con le cavallette fritte. Quindi Paul McCartney è rimasto indietro di almeno 5-6 anni. Oggi il nuovo must sono le barrette proteiche al grillo. Allora, non questa Beppe domenica, grillo, no, al grillo insetto. Questa domenica esordisce Giletti ed è molto arrabbiato. Intorno a me dice terra bruciata. Il Giletti di oggi non è il Giletti di ieri, il Giletti di oggi è uno che è passato in una tempesta forte, ha fatto fatica a uscirne. C'era qualcuno che non mi voleva più far parlare, evidentemente chi non voleva farmi parlare oggi invece si trova di fronte uno che la domenica è tornato, quindi intorno a me si è fatta terra bruciata, io non riesco a trovare ospiti, è molto curioso. Vedi, terra bruciata e anche non avere ospiti. Brugnaro, sindaco di Venezia, difende il ristoratore veneto, anzi proprio della città, che rispedisce al mittente la lettera che gli hanno spedito alcuni turisti cinesi vittime di un conto da 560 euro. Poveri cinesi, ci hanno ragione. Ma erano 560 euro a testa o 500 euro? No, in tre, cena di pesce. Bisogna, bisogna vedere, come si direbbe a Roma, bisogna vedere che hanno magnato, cioè nel senso che... Una cena di, cioè, è un attimo spendere 160 euro. 150 euro per una cena di pesce. Se, ci sta, bisogna vedere cosa hanno mangiato. Me lo senti, Brugnaro, poi commenta dopo. Hanno mangiato aragosta, non è stato niente sul piatto. Io ho chiesto al cameriere, ma ti hanno lasciato la mancia, neanche quella. Pezzenti, lo vedi? Cioè, sono graditi i turisti, cioè uno che mangia e beve e poi dice che non sapeva la lingua, ma se viene in Italia impara l'italiano, anche un po' di veneziano non farebbe male. I turisti si lamentavano, le tre turiste, di aver mangiato piatti non ordinati, crudi e ostiche, ma almeno avranno mangiato bene. In effetti i toni del veneziano assomigliano un po' a quelli del cinese. Ho sentito come resmo in questo ristoratore. Beh, ovviamente no, potevano guardare. Dire che adesso arrivano 200 messaggi contro. Potevano guardare almeno il prezzo. Senti, ma è 560. E beh, bisogna vedere quante aragoste hanno mangiato, che cosa hanno ordinato, che ostriche. A me sembra, sì, in effetti è un po' tanto, perché vuol dire circa 160-170 a testa. Allora, ci fermiamo per le strade e abbiamo belle fritture dopo Già Svegli. Facciamo un avvertimento sindacale, è immorale alzarsi a quest'ora. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta... Quattro mattino. I Già Svegli. Ciao Luca, sono Luciano. Perché ti ascolto? Semplicemente perché mi fai compagnia. Sono un nonno full time. 6:35 per l'esattezza sveglia, 7:30 puntuale, arriva il primo ospite, il cagnolino di nostra figlia, alle 8 arriva la seconda figlia e lì parte la giornata full time di noi nonni che sostituiamo tutto il social che purtroppo viene a mancare. Cioè che io non so come sono ancora in piedi, cioè come sono in piedi adesso, guarda, credo che sarà una tantum. Guarda, sai che cosa succede? Che leggo i giornali presto, poi però mi riaddormento. E improvvisamente mi alzo, poi mi addormento immediatamente. Di Maio si dimostra uno stratega e a confrontare Renzi lui si nega. Entrambi pensano di essere furbacchioni, ma vuoi vedere che ride Berlusconi? Caro Luca, ti telefono per chiederti se ti servono ancora quelle stufette scemotte di De Castillo di Piemontese. Chiedimeli tu il giorno prima e mi dai l'argomento. È al 34936. Le vogliamo le strofette di endecasillabi, assolutamente. Fai anche tu a piacere, trova tu il tema, non devi essere... Ma sì, qualche volta ti chiameremo, ma tu vai sempre perché sono molto gradite. Così come è bellissima, bellissima Alberto, questa immagine del nonno, il nonno manager che diventa un pezzo dello stato sociale. Accudisce e dice, noi sostituiamo i social. E bambini. Tutto il social che non c'è. Il social, chissà, quello che non vuol dire, cioè, meglio il nonno che si dà da fare più dei social network. Cioè, il vero social network sono i nonni attivi e attivisti. Questo è straordinario. Abbiamo un nuovo network sociale di nonne e di nonni che coprono le carenze del nostro stato sociale. Allora, è una verità. Siccome 24 mattino da sempre la quintessenza di quello che bisogna sapere, il sondaggio di Index Way mandato ieri a Piazza Pulita, PD 24,7, sinistra varia, diciamo unite 6%, e il centrodestra unito al 36,4%. Insomma, un bel terremoto. Aspetta, sto cercando i 5 Stelle a quanto venivano quotati, mi pare 27,4. Ma E bisognerebbe chiedere. No, allora... 27,8. 27,8. Allora bisognerebbe chiedersi allora perché Matteo Renzi, che ha preso il treno per partire verso il Veneto, ieri ha detto che lui è convinto che ci sia ancora la possibilità di questo famoso 40%. Non so se non so se hai sentito le sue dichiarazioni. Sì, c'è un tema di cui parliamo in rassegna, che l'ultima opzione è facciamo un accordo di desistenza anche senza alleanza. Questa è la speranza di Renzi. Ma torniamo all'esercito che combatte con, ti faccio sentire, Antonio Ricci. Berlusconi è anche un barzellettiere terribile, perché sono quelli che se le adattano alla loro vita, cioè non c'è Pierino che va, è lui, sono cose che capitano a lui. Ma... E poi, incredibile, una donna di 90 anni, Gina Lollobrigida, che racconta di due violenze subite, ospite di Bruno Vespa, e dice: certo, non le ha inventate Weinstein le violenze, ma quelle che racconta lei colpiscono. La prima volta ero innocente, non conoscevo l'amore, non conoscevo niente, e la persona era molto conosciuta, avevo 19 anni, andavo ancora a scuola. E la seconda è meglio non parlarne, ero, diciamo, già sposata e cominciavo già, diciamo, a fare il cinema. E anche qui mi chiedo, massimo rispetto, ma se una donna ai 90 anni come Gina Lollobrigida non trova la forza di fare un nome drammatico, eh? Eh beh, perché per molti molti decenni il mondo del cinema e dello spettacolo ha preferito il silenzio rispetto a parlare con trasparenza. Io penso che, di là da quello che è stato detto anche dalla Bellucci, che è stata molto franca, molto onesta su questo, obiettivamente che si sollevi il velo del silenzio è bene. C'è da chiedersi perché si aspettano anni a parlarne, o si aspetta di essere, diciamo, fuori dai giochi o di avere già abbastanza successo. Allora, ne voglio parlare anche dopo, ma desidero un tuo parere, perché qui il tema diventa molto controverso e complesso. Ne parla Mario Giordano sulla Verità e ovviamente fa riferimento a un film sulla vita di Gotti che Kevin Spacey aveva già interpretato e che adesso, dopo lo scandalo, vedrà rigirate le scene un film di Ridley Scott e verrà cancellato Kevin Spacey. Già l'interpretazione fatta, sono stati richiamati tutti gli attori che avevano fatto questo, quello, lo spezzone, rigirano un terzo di film per cancellare da quella opera Kevin Spacey. Giordano è critico, ma devo dire che sono d'accordo con lui. Sembra la foto dei rivoluzionari della rivoluzione d'ottobre sbianchettata da Stalin. Eh sì, come recentemente una giunta grillina da cui è scomparsa una dissidente con un colpo di Photoshop. Cioè, come dire, il Photoshop applicato su scala di massa, una specie di caccia alle streghe. Ora, con tutto quello di cui può essersi macchiato Kevin Spacey, certo uno si chiede: ma un regista come Ridley Scott gli hanno veramente fatto fare due conti commercialmente? Cioè, se compare Kevin Spacey sullo schermo, penso il che cinema sia sarà questo un flop? Ci sono motivi commerciali, oppure hanno paura, probabilmente hanno paura di una di quelle campagne sui social che boicotta Ridley Scott. E fa tristezza questo, non tanto perché io senta solidarietà verso questo o quell'altro molestatore, ma perché, insomma, le opere d'arte o comunque i film hanno una propria autonomia di linguaggio estetico che andrebbe un po' salvaguardata. Mario Giordano evoca Chaplin. Nei giorni scorsi diversi ascoltatori ci hanno ricordato, che so, come si chiama, Errol Flynn, tanti altri attori che hanno avuto delle vicende controversie, violenze, molestie. Ieri un bel fondo della Cultura del Messaggero ricordava persino Napoleone Bonaparte con la cameriera che all'Elba rifiutò di soggiacere alle sue richieste, e Paolina, la sorella, che disse: se l'avessi chiesto a me l'avrei fatto. Beh, in effetti Kevin Spacey, poi non dimentichiamolo, House of Cards, cioè uno dei miti della generazione presente, è comunque un grande attore. Allora, il motivo per cui tu lo debba eradere e cancellare a me sinceramente risulta comprensibile solo perché ormai siamo tutti dominati dalla dittatura del social network, per cui abbiamo proprio dell'appello contro della campagna virale che ci sommerge. le dirette in streaming, devono esserci anche le commissioni parlamentari sulle banche, sulla su tutto, tutto in diretta, tutto visibile, tutto esibito. Il mio terrore è che oggi sia una polemica e fra 10 anni, 5 anni sarà un contenuto speciale. Guarda, la copertina, vedi il film com'è la copertina dell'Economist di questa settimana mostra la F di Facebook usata come pistola e dice l'attacco dei social media alla democrazia, cioè perfino l'equilibratissima Economist comincia a chiedersi ma non sarà che moriremo di un eccesso di social media sbandierati dal populismo come nuova voce di democrazia, in realtà viralmente deputati a diffondere l'imbecillità? Questa è una domanda con cui... Grazie al pensiero denso di Alberto Castelvecchi, lo ringraziamo, lo salutiamo, arriva il giornale radio e poi grazie entriamo nei piedi della segna stampa. Ciao!